Ad alta voce, Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed, traduzione di Barbara Gambaccini. La riunione straordinaria del Soviet di Pietrogrado era appena terminata. Fermai Kameniev, che senza alcun preambolo ci lesse in francese una traduzione della risoluzione testé votata. Il Soviet dei deputati operai e soldati di Pietrogrado, salutando la rivoluzione vittoriosa perpetrata dal proletariato e dalla guarnigione di Pietrogrado, enfatizza in modo particolare la coesione, l'organizzazione, la disciplina e la perfetta collaborazione delle masse durante l'insurrezione. Raramente una sommossa ha potuto vantare di altrettanto successo spargendo meno sangue. Il Soviet esprime il pieno convincimento che il governo sovietico di operai e contadini, creato dalla rivoluzione, garantirà al proletariato l'appoggio dei contadini poveri e percorrerà con fermezza la strada verso il socialismo, unico possibile mezzo per evitare miserie e orrori della guerra. Il nuovo governo intende immediatamente sottoporre ai paesi belligeranti proposte per una pace giusta e democratica. La proprietà fondiaria sarà soppressa e le terre consegnate ai contadini. Il controllo operaio sarà stabilito sulla produzione e distribuzione dei prodotti e le banche diverranno monopolio di Stato. Il Soviet di Pietrogrado esorta operai e contadini russi a votare ogni energia e devozione alla causa della rivoluzione operaia e contadina. Il Soviet confida nella capacità di contadini e operai di autodisciplinarsi affinché il perfetto ordine rivoluzionario sia assicurato, permettendo così la piena vittoria del socialismo. Il Soviet è convinto altresì che il proletariato dei paesi occidentali possa aiutarci a portare avanti il nostro obiettivo. Dunque, reputate già vinta la partita. Scrollando le spalle, rispose: resta talmente tanto da fare. Questo è solo l'inizio. Sul pianerottolo, Ryazanov, vicepresidente del Consiglio dei Sindacati, scuro in volto, gridava mordendosi i baffi grigi: «È insensato, insensato! I lavoratori d'Europa non interverranno! L'intera Russia!» Non terminò la frase e, levando disperatamente le braccia al cielo, si allontanò di corsa. Ryazanov e Kameniev, contrari all'insurrezione, erano stati vittime di taglienti rimproveri da parte di Lenin. La riunione appena conclusa era stata decisiva. In nome del Comitato Militare Rivoluzionario, Trotsky aveva dichiarato la fine del governo provvisorio. È caratteristica dei governi borghesi, aveva sottolineato, ingannare il popolo. Noi, i soviet dei deputati operai, soldati e contadini, vogliamo tentare un esperimento storicamente innovativo. Creeremo un governo il cui unico scopo sarà di soddisfare le necessità di soldati, operai e contadini. Lenin, preceduto da un'inesauribile ovazione, aveva vaticinato la rivoluzione sociale nel mondo intero, mentre Zinoviev gridava: «Oggi abbiamo pagato il nostro debito al proletariato internazionale e inferto un'enorme sconfitta alla guerra, all'imperialismo e a Guglielmo il Carnefice». Infine, Trotsky, annunciata la spedizione di telegrammi al fronte per diffondere la notizia della vittoria, aveva aggiunto che nessuna risposta era al momento pervenuta. Correva voce che le truppe marciassero su Pietrogrado e bisognava inviare una delegazione per dire loro la verità. Terminava così la fase moderata della rivoluzione. Mancavano all'appello i suoi principali fautori, Kerensky, diretto al fronte, Chase, la vecchia aquila, ritiratasi tra le montagne della Georgia a morire di tisi, e Tsereteli, quell'uomo di carattere nobile che, pur colpito dalla malattia, sarebbe tornato per porre la sua magnifica eloquenza in difesa di una causa ormai persa. Goetz, Dan, Lieber, Bogdanov, Broido, Filipovski, tutti presenti, mostravano volti esangui, occhi infossati e ricolmi di sdegno. Ai loro piedi il secondo congresso panrusso dei soviet ribolliva. Sopra le loro teste il Comitato Militare Rivoluzionario teneva saldamente le redini dell'insurrezione, agitando il suo lungo braccio. Erano le 22:40. Improvvisamente una voce nuova e profonda sovrastò il clamore dell'assemblea. Un rumore cupo, persistente e angosciante. Il boato del cannone. Sguardi ansiosi si volsero alle finestre e una sorta di angoscia febbrile si diffuse in tutta l'assemblea. Martov chiese la parola e dichiarò con voce rauca: «La guerra civile ha avuto inizio, compagni. La soluzione pacifica della crisi adesso è una questione prioritaria. Per ragioni di principio, come pure per motivazioni politiche, abbiamo il dovere di discutere i mezzi per bloccare questi avvenimenti. Coloro che si uccidono sulle strade sono i nostri fratelli. In questo momento, ancor prima dell'apertura del congresso dei Soviet, si vuole risolvere la questione del potere attraverso un complotto militare organizzato da uno dei partiti rivoluzionari». Per un istante il rumore esterno sovrastò la sua voce e poi: «Tutti i partiti rivoluzionari devono considerare attentamente questo fatto. La questione del potere, tanto prioritaria per il Congresso, viene ora regolata in strada attraverso la lotta armata. Dobbiamo nominare subito una delegazione che tratti con i partiti e le organizzazioni socialiste». Il rimbombo cadenzato delle cannonate scuoteva le finestre, mentre i deputati seguitavano a scambiarsi invettive. La nuova Russia stava nascendo tra il frastuono dell'artiglieria nell'oscurità, le inimicizie, le paure e l'intrepido ardimento. Не слышал от меня ты слова упрека. За что же обидел ты меня жестоко? Милый, расстались мы, другой любви я не ищу. Но если ты вернешься, я тебя тогда прощу. Un giovane soldato, il viso emaciato e gli occhi folgoranti, si precipitò alla tribuna e stese le braccia in un gesto drammatico, impose il silenzio. «Compagni, mi chiamo Peterson e vengo a nome del secondo battaglione di fanteria lettone. Avete ascoltato le dichiarazioni di due delegati dell'esercito. Queste dichiarazioni potrebbero valere qualcosa se essi fossero realmente rappresentanti dell'esercito». Applausi frenetici. «So quel che dico. Costoro non rappresentano i soldati. È da molto tempo che la 12ª armata reclama nuove elezioni per il Soviet e per il Comitato Esecutivo dei Soldati. Ma come è accaduto con lo JIC, i nostri comitati si sono rifiutati di indire una riunione con i rappresentanti delle masse prima della fine di settembre. In questo modo i reazionari hanno potuto eleggere i loro falsi rappresentanti per questo congresso. Invano i soldati lettoni hanno detto: basta con gli ordini del giorno, basta con le parole, vogliamo i fatti, vogliamo il potere. Lasciate che i delegati impostori abbandonino il congresso. L'esercito non è con loro». Applausi scroscianti scossero l'intera sala. All'inizio della riunione, sconvolti dal rapido susseguirsi degli eventi e dai colpi di cannone, i delegati parevano esitare. Per circa un'ora dalla tribuna il martello accusatorio li aveva colpiti, annientando le loro certezze. Erano realmente isolati. L'intera Russia sembrava essersi levata contro di loro. L'esercito marciava dunque su Pietrogrado? Ma alla fine quel giovane soldato dallo sguardo limpido aveva fatto capire loro la verità. Le sue parole rappresentavano la voce dei soldati, e gli operai in uniforme e i contadini erano uomini come loro, che provavano i medesimi sentimenti. A nome dei bolscevichi, Ryazanov comunicò che, su richiesta della Duma municipale, il Comitato Militare Rivoluzionario aveva inviato una delegazione al Palazzo d'Inverno per trattare. Nessuno potrà accusarci di non avere fatto il possibile per evitare uno spargimento di sangue. Ci allontanammo in fretta, soffermandoci un istante nel locale dove il Comitato Militare Rivoluzionario, tra incessanti squilli di telefono, lavorava freneticamente per ricevere e spedire corrieri ansimanti e inviare commissari muniti di ogni potere in tutti gli angoli della città. Non appena la porta si aprì, fummo investiti da una zaffata di aria viziata e fumo. Quando uscimmo, nella notte fresca, rimanemmo sorpresi dall'elevato numero di auto in arrivo e in partenza dal palazzo. Il frastuono dei cannoni in lontananza sovrastava il rombo dei motori. Alcuni uomini armati di fucili caricavano dei pacchetti su un grande camion fermo innanzi all'ingresso. «Dove siete diretti?» gridai. «In città! Ovunque!» rispose un giovane operaio esultando. Mostrammo il lasciapassare. «Potete venire con noi!» «Ma sicuramente vi troverete nel bel mezzo dei combattimenti!» Abbarbicati sul camion, oltrepassammo i fuochi accesi dagli operai di guardia alle cancellate e percorremmo ad alta velocità il corso Suvorovsky. Uno degli uomini, strappata la carta che avvolgeva un pacco, prese a lanciare lungo il tragitto manciate di giornali. Ci affrettammo a imitarlo, cosicché, poco dopo, la strada alle nostre spalle apparve disseminata di fogli svolazzanti. Gli esigui passanti si fermavano per raccoglierli e i soldati di pattuglia abbandonavano i falò improvvisati sugli incroci per afferrarli al volo. Di tanto in tanto, uomini armati ci rivolgevano frasi incomprensibili. Alla luce fuggente dei lampioni lessi uno dei fogli. «Cittadini della Russia, il governo provvisorio è deposto. Il potere è nelle mani del Comitato Militare Rivoluzionario. L'organo del Soviet dei deputati operai e soldati di Pietrogrado, alla testa del proletariato e della guarnigione di Pietrogrado. Lo scopo della lotta, proposta immediata di una pace democratica, abolizione della grande proprietà fondiaria, controllo della produzione da parte dei lavoratori, creazione di un governo sovietico, è stato dunque raggiunto. Viva la rivoluzione degli operai, dei soldati e dei contadini!» Comitato Militare Rivoluzionario del Soviet dei deputati operai e soldati di Pietrogrado. Un uomo, seduto vicino a me dai tratti mongoli e un mantello caucasico in pelle di capra, ci avvertì della presenza in quella zona di provocatori che si dilettavano a sparare dalle finestre. Percorremmo piazza Znamenskaya, pressoché deserta, e girando intorno alla statua di Trubezkovsky imboccammo la Nevskij, dove tre uomini, gli occhi fissi alle finestre, erano pronti a sparare. Stranamente, man mano che ci avvicinavamo al palazzo d'inverno, i colpi di cannone sembravano scemare e le strade apparivano quiete e deserte. Poco lontano dalla Duma municipale, brillantemente illuminata, scorgemmo nell'oscurità una folla e una fila di marinai che, furiosi, ci imposero di fermarci. Innanzi a noi una scena strabiliante. Sull'angolo del canale Ekaterina, un cordone di marinai sbarrava il passo sulla Nevskij a 300 o 400 persone, tra cui uomini in redingot, donne eleganti, ufficiali di varie estrazioni sociali. Identificammo fra quelli parecchi delegati al congresso, capi menscevichi e socialisti rivoluzionari e innanzi a tutti il vecchio Schreider, il sindaco di Pietrogrado con la barba bianca e Prokopovic, il ministro degli approvvigionamenti del governo provvisorio arrestato quella stessa mattina e poi rilasciato. Tra loro anche Malkin, corrispondente del Russian Daily News. «Andiamo a morire al palazzo d'inverno!» gridò allegramente. La colonna umana si fermò e coloro in testa principiarono un'accesa discussione. In particolare Schreider e Prokopovic si rivolsero con autorità a un grosso marinaio che sembrava essere il comandante. «Vogliamo passare!» strepitavano. Tutti questi compagni vengono dal congresso dei Soviet. Controllate pure le loro tessere. Noi andremo al palazzo d'inverno. Il marinaio pareva alquanto imbarazzato. Grattandosi la testa e aggrottando le sopracciglia, replicò: «Ho ricevuto l'ordine dal comitato di non lasciare avvicinare nessuno al palazzo. Mando subito un compagno a telefonare a Smolny. Insistiamo per passare. Non siamo armati, proseguiremo con o senza permesso», gridò il vecchio Schrader, sempre più esaltato. «Io devo rispettare gli ordini», ripeté il marinaio seccato. «Sparateci, se volete, ma noi passeremo. Avanti!» gridava la folla. «Noi siamo disposti a morire. Vediamo se avete il coraggio di sparare su dei russi, su dei compagni. Offriamo i nostri petti ai vostri fucili». «No!» rispose il marinaio ostinato. «Non voglio lasciarvi passare. Che cosa farete se passiamo lo stesso? Sparerete?» «No! Non attaccheremo persone disarmate. Non spareremo su russi disarmati, ma noi andremo avanti. Cosa potete fare allora?» «Adesso avvertiamo», rispose il marinaio sempre più a disagio. «Non possiamo lasciarvi passare, ma avvertiremo subito. Che cosa farete? Che cosa volete fare?» insistevano quelli. Fu un altro marinaio, particolarmente seccato dall'evolversi dei fatti, a prendere la parola. «Cosa faremo? Adesso vi spediamo tutti a casa», sentenziò brusco. «E se ci obbligherete, spareremo. Andatevene a casa e lasciateci in pace». In risposta si levò un forte clamore di malcontento e collera. Prokopovic si arrampicò su una cassa e, agitando il parapioggia, pronunciò il seguente discorso. «Compagni, cittadini, si vuole adoperare la forza contro di noi. Non possiamo permettere che questi cafoni spargano del sangue innocente. Non sarebbe dignitoso lasciarci fucilare da questi deviatori!» Mi sono sempre domandato che cosa abbia voluto dire con tale termine. «Torniamo alla Duma per trovare una soluzione che salvi il paese e la rivoluzione!» Persuaso da queste parole, il corteo, in un dignitoso silenzio, tornò sui suoi passi, mentre noi, approfittando della confusione, ci infiltrammo tra le sentinelle, avviandoci verso il palazzo. L'oscurità era completa. Soldati e guardie rosse sorvegliavano meticolosamente la zona. All'altezza della cattedrale di Kazan, un cannone di 3 pollici giaceva al centro della strada, laddove il contraccolpo dell'ultimo sparo lo aveva gettato. I soldati, posizionati a ogni ingresso, volgevano lo sguardo al ponte della polizia parlottando tra loro. Riuscii a sentirne le parole: «Forse abbiamo sbagliato. Raggiunta la camera dove i ministri si erano riuniti fino all'ultimo, prima di essere traditi dagli stessi custodi e consegnati alle guardie rosse, notammo che il lungo tavolo ricoperto di panno verde recava ancora, innanzi a ciascun posto, un calamaio, una penna e dei fogli su cui erano stati frettolosamente tracciati piani operativi e schemi di proclami e manifesti. Questi ultimi, divenuta probabilmente evidente in quelle ultime ore la loro totale inadeguatezza, erano stati cancellati. Il resto dei fogli appariva cosparso di disegni geometrici senza senso, schizzati meccanicamente dai ministri ormai privi di reali aspettative, intenti ad ascoltare le irrealizzabili proposte dei colleghi. In una di quelle carte lessi la frase seguente, di cui riconobbi la calligrafia di Konovalov: «Il governo provvisorio domanda a tutte le classi di sostenerlo». Appena giunti nella stanza dove quello stesso pomeriggio avevamo ammirato i quadri e chiacchierato con alcuni degli Junker, un centinaio di uomini ci circondò e un soldato enorme, rivoltoci uno sguardo cupo e sospettoso, gridò: «Chi siete? Che cosa fate qui?» Gli altri, squadrandoci, cominciarono a mormorare: «Provocatori, saccheggiatori». Mostrai a un soldato i salvacondotti rilasciatici dal Comitato Militare Rivoluzionario, ma quegli, probabilmente incapace di leggere, se li rigirò tra le mani senza capire, prima di renderceli sputando con disprezzo sul pavimento: «Cartaccia! Sappiamo bene che non ha alcun valore». Anche gli altri, quasi fossero un branco selvaggio attorno a un bovaro, ci si strinsero contro. Intravisto alle loro spalle un ufficiale che appariva alquanto indeciso sul da farsi, lo interpellai. Quello ci venne incontro, aprendosi un varco tra i soldati. «Sono il commissario», mi disse. «Chi siete? Che cosa succede?» Gli uomini indietreggiarono in attesa. Gli mostrai le nostre carte. «Stranieri?» domandò in francese. «È molto pericoloso». Rivolgendosi poi ai soldati, sventolò innanzi a loro le nostre carte, gridando: «Sono dei compagni americani, venuti qui per raccontare ai compatrioti tutto il coraggio e la disciplina rivoluzionaria dell'esercito proletario!» Nella notte ghiacciata, truppe eccitate solcavano le strade e dall'altra sponda del fiume, dove si ergeva la fortezza di Pietro e Paolo, si levava un soffocato clamore. Il marciapiede era disseminato di frammenti del cornicione del palazzo colpito dall'incrociatore Aurora, unici danni causati dal bombardamento. Erano le 3 del mattino. Sulla Nevsky i lampioni erano nuovamente accesi. Il cannone era stato spostato dal centro della strada e solo la presenza di guardie rosse e soldati raccolti attorno al falò ricordava la guerra appena intercorsa. In città regnava una profonda quiete, più di quanto si fosse avuta precedentemente. Non un solo delitto o furto fu commesso quella notte. Lenin e gli operai di Pietrogrado avevano optato per l'insurrezione. Il Soviet di Pietrogrado, rovesciato il governo provvisorio, aveva posto il congresso dei Soviet innanzi al fatto compiuto. Occorreva ora conquistare la Russia e il mondo intero. Il paese si sarebbe sollevato. E il mondo. I popoli avrebbero accolto l'appello, concedendo alla marea rossa di dilagare ovunque. Alle 6 del mattino, un livido chiarore si diffuse nelle strade, preannunciando una nuova, terribile alba. E ancora la voce di Tommaso Ragno a leggere I 10 giorni che sconvolsero il mondo di John Reed. L'edizione di riferimento è quella tradotta da Barbara Gambaccini per le edizioni clandestine. Ad alta voce è un programma a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante che ha curato la riduzione per questa lettura radiofonica, Lorenzo Paolini e Chiara Valerio alla regia, Jonathan Zenti. Le puntate sono scaricabili in podcast alla pagina adaltavoce.rai.it.